Dialogo 24. Raccontò Amr bin Shuaib: mio padre udì dire da suo nonno che un giorno il profeta, che Allah lo benedica e lo abbia in gloria, domandò: quali sono le creature che voi ammirate di più per la loro fede? Gli risposero gli interrogati: gli angeli. Domandò: come potrebbero non aver fede essendo al cospetto del loro Signore? Dissero: i profeti. Domandò: come potrebbero non aver fede dal momento che ricevono la rivelazione? Dissero: allora noi. Domandò: come potreste voi non aver fede dal momento che in mezzo a voi ci sono io? Poi l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, aggiunse: le creature più ammirevoli per la loro fede sono coloro che verranno dopo di me, troveranno fogli contenenti delle scritture e crederanno a ciò che in esse è contenuto.